Dio quanto polline, chissà cosa comporterà. Tanti scompigli per chi può allergico sarà. Al bacillo dei cigli, il TG se ne parlerà.